non c'erano problemi, mentre invece AM saturava, non so cosa dici. Comunque io so sempre, ormai quando si trasmette da casa, che è il migliore in assoluto, perché a valvole sì, deve farle scaldare, tutto quello che vuoi, però poi alla fine la resa è stato migliore. Qui io la penso voi, poi grazie che mi sto sbagliando. No, grosso modo è così, vediamo chi vuole entrare, avanti. Nessuno, no? Perché c'era una portante, mi pare, ma non sono sicuro. Devo occuparsi che ci sia preparazione, non lo so. Si capita, perciò non... Io ho preso così, quello mi ha detto... Ripetimi, dopo lo guardo... Ma devo ripetere cosa? La sigla di quelle lineare, dopo lo guardo... Allora, RM KL 203. RM KL 203, non si troppo più tardi quando scendo giù, accendo il computer e voglio vedere le caratteristiche. Sì, sì, no, ma però fammelo sentire, attaccato a vedere se è stato là. Allora, la differenza, il passaggio, così 5 watt, 1, 2, 3. Così 65 watt, quasi 60, dai, vedi un po' come cambia, se cambia. No, no, la modulazione è sempre uguale, non fa una grinza, è sempre chiara, bella, non ci sono problemi. Con la differenza è che naturalmente è ovvio, questo sì, io lo volevo per vedere se arriva più. No, no, assolutamente, va benissimo. Bene, va bene così allora, va. Adesso lo stacco. Ok, sì. Praticamente lo hai alimentato adesso con 5 watt, mi hai detto, confermi? Fappa, 5 watt, tondi. Ascolta, lo puoi alimentare ancora più forte, con più watt lo puoi alimentare? No, con questo apparato no, questo ha solo 5 watt. Ah, ok, no, se no facevo anche... Volevo sapere anche con un baracchino un pochino più forte, tipo i Shabbat ad esempio, se rovinava la modulazione o se rimaneva bella pulita. No, con questa così rimane pulitissima, non pulita, pulitissima, veramente, bella. Vabbè, d'altronde fino alle MOSFET dovrebbe rendere un tantino meglio, da. Ah, 4 MOSFET. Non so, montano 4 MOSFET, 100 watt come montano i 4 MOSFET, sì, lo so. Come, diciamo, come modulo o come finali, come quello che avevo io, il 747. 1307, che sono finali qua perlomeno. Fuori ci sono un sacco di sbotti. Dunque se dove. Il vinetto 747 costa 60 euro, 55-60 euro, e mi sembra che costa una roba di 20 euro, se puoi fare il conto per 4 finali, non se ne vuole cambiare già 4, se già devi comprarlo direttamente nuovo, parlo di... Un attimino che sto provando qua, ecco qua. Va bene, da. Qua comunque ho appena di stazionarie. Mi pare 1,4, da. Senza stazionarie rende un po' meglio, ovviamente. Perché, sai, può influire. Se sono 1,4 da liscio, quando attacchi salgono 1,5, 1,6. Sì, ma certo, è ovvio. Quando metti un po' di potenza aumentano le stazionarie. Sì, in effetti... Sì, perché tu hai quell'antenna, aspetta che antenna, tu avevi una mezz'onda, avevi, no? Se ricordo bene, era la Ringo, confermi che era la Ringo? Eia, è quella cacca di antenna. Vabbè, non è che sia proprio una cacca di antenna, è una mezz'onda, e diciamo che dà un po' di fastidio ad accordarla bene, perfettamente, però, insomma, per quello che è, per come è costruita rende, no? Non è che non rende, rende abbastanza. E dunque non, corso l'angolo di radiazione, e bisogna vedere, a volte una mezz'onda può arrivare anche più lontano di una 50 anni, non teoricamente, però diciamo che di fatto potrebbe anche succedere, dipende sempre dall'angolo di radiazione. Allora, la 5/8 dovrebbe avere l'angolo di radiazione sempre più basso, la mezz'onda più alto, però mettendo la mezz'onda a mezz'onda di altezza dal suolo, no? Col palo da 6 metri, da grosso modo mezz'onda, gli abbassa un pochino l'angolo di radiazione, lo fa più simile a quello della 5/8. E appunto quello, il discorso è quello, dipende da dove uno mette l'antenna, su quale tetto va installato, dipende anche dalle case che ci sono nelle vicinanze, insomma, perché ci sono sempre, c'è il discorso della cosa, come si dice, del accidenti, non mi viene l'aggettivo, vabbè dai, già mi hai capito comunque. In poche parole, se noi abbiamo uno spazio libero, abbiamo un piano riflettente, ultimo, non ci sono lui, senza ostacoli da nessuna parte, mentre invece se c'è qualche ostacolo potrebbe anche dare fastidio. Infatti è così, cioè bisognerebbe fare certe valutazioni, bisognerebbe farle nello stesso posto, nello stesso punto, in un campo libero, ma veramente libero da qualsiasi ostacolo, con la stessa altezza di antenna, cioè con lo stesso palo, eccetera, eccetera, per poter vedere effettivamente che cosa combina un'antenna o che cosa combina l'altra, capito? Cappa, è vero. Allora, questo mic come va? Questo è un mic preamplificato della Intec del 1990, mi sembra, se non prima. Buono, io ti sento chiarissimo, è abbastanza forte anche, va benissimo, non ci sono problemi, veramente, pulita, la radio è pulita, non nessuna interferenza, nessun fruscio, nonostante un po' di QRM di preparazione, ma tu riesci a superarlo abbondantemente. Qua arriva a Santiago 4 la propagazione, alle volte sale anche a 5, sì, che poi questo è l'unico canale che è sempre più disturbato, ci sono più cose di fondo, eccetera, eccetera. Va bene, adesso chiudo, questo apparato lo tolgo, però rimetto l'altro, era solo la prova che ho voluto fare, dai. Ok Marco, d'accordo, in effetti è così, questo canale evidentemente è utilizzato molto, ci sono più frequenze, c'è anche la frequenza TV del primo canale, che facendo il quadrato della frequenza, diciamo che si raggiungono, cioè, perché una volta si disturbava il primo canale, perché facendo la moltiplicazione della frequenza si arrivava ai 54 MHz che era ed è la frequenza del primo canale, capito? E dunque il motivo per cui il primo canale subiva le conseguenze era proprio quello, da questa frequenza qua. Oggi è difficile perché c'è la digitale terrestre e dunque è già diverso. Va bene, ma dimmi, stai andando via oppure vuoi togliere quello per fare altre prove? Non lo so. Allora, tolgo questo e rimetto l'altro apparato, così vediamo, pilotato con 10 watt se distorce o no, ma non credo, dammi 5 minuti. Ok, d'accordo, non ci sono problemi, appena che sei pronto chiamami, io sono qua, prendo il tempo che ti occorre, non ci sono problemi, ok, a dopo. Sì, ho capito. C'è stato un break, avanti il break. Ma sera, eh. Ciao, ciao amicino, salutoni. In compagnia di Stanoccia Manolo, se ricordo bene. E poi c'è. In quel ricchio un attimo che sta facendo un cambio di baracchino, c'è anche Marco. Marco Condor che tra un attimo si farà risentire. Avanti, Leoncino, per me e per Manolo K. Ciao Manolo, buonasera. Buonasera anche a te, buonasera. Hai conosciuto chi sono, sì, Manolo? Hai conosciuto, ha detto mi Leoncino, vi siete sovrabbonati. Avanti Giuseppe. Dove incontrare e quando incontrare Andrea Noello, intanto sono fatte con giudizio e sono fatte meglio, va sempre meglio. Va bene, dai, riprendi. E certamente, tanto è vero, mi servivano anche come segnale più forte di prima, dei giorni scorsi, quando ti ho sentito. Magari non so se sei sempre parcheggiato nella stessa posizione, nello stesso punto, capito? Allora potrebbe anche esserci quella la differenza, perché alle volte ti sposti di un metro, il segnale può essere più basso, siccome so che stai uscendo dalla macchina. Però rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, anche come segnale è aumentato di parecchio, anche dunque va bene così. Non ci sono problemi. Davanti chi era? Marco? K, allora, in questo momento sono con 10 watt dell'apparato. Guarda un po', guarda la differenza di radio di cosa. Allora, così 10 watt, così 100 watt. Così 100 watt, dimmi se la modulazione ha cambiato. Sì, diciamo che ha cambiato leggermente, però è accettabilissima, veramente. Ha cambiato poco, ma quasi niente. Io riesco a sentirti lo stesso in maniera molto, ma molto chiara. Senza la limitatore lineare è più chiara, questo sì. Leggermente si è abbassata, cioè si è, diciamo così, rovinata la modulazione, però è buonissimo ugualmente, e va benissimo, cioè se devi usarlo per dire, per fare collegamenti a lunga distanza è ottima, veramente, e poi anche un buon guadagno è ottimo, perché senza e se 9 più 15, sì, mentre invece attaccato sei già intorno ai 9.30, capito Marco? C'è Manolo con noi qua da bancare, avanti Marco. Ciao anche a Manolo, ben sentito, va bene. Quindi cosa fa? Satura appena? La satura appena appena? Sì, la satura appena appena, però qui alla distanza che siamo noi, cioè la mia stazione con la tua, tu lo sai dove sono, devo dire che non è questa grande inclinazione che subisce la modulazione. Per me è buonissima, non è ottima ma è buonissima lo stesso, capito? Dunque, a distanza ancora più lontano sono convinto che non si sentirà nemmeno quella piccola saturazione, capito? Ok, dai. Comunque io non dovrei pilotarlo con 10 watt, capito? Perché tende a saturare, dovrei pilotarlo con 8 watt, 7 watt. L'ideale sarebbe 7 watt e non satura niente, e darebbe lo stesso sugli 80 watt, anche non watt. Ok, dai, adesso lo stacco. Ecco qua, così è più chiara. Va bene, riprendi l'amico dei bancali. Ok, fai bene, cosa stai facendo? Le pulizie della macchina? Sì. Ho capito, certo. Va benissimo così. Ecco, l'antenna comunque in quale sportellone l'hai messo? Nello sportellone dietro lei mette l'antenna, o davanti dove l'hai messa l'antenna? Ok, sì. No, io ti sto ricevendo, ripeto, molto bene, abbastanza bene. Vediamo un po' come ti riceve Marco. Marco, come lo ricevi a Manolo da Bancari? Con l'antenna, però tieni presente che l'antenna, siccome la macchina è cavo, e dunque c'è da un lato, ce l'ha, nello sportellone dietro, avanti Marco. Capa Manolo, fai un passaggio. Santiago 4, radio 5. Copiato Manolo. Tu come segnale a Marco, le stai arrivando? Sassari alto, diciamo, in zona alta. Le stai arrivando Santiago 4, però la radio 5 è perfetta. Capito? Perciò, quello, il discorso è quello. Diciamo che come segnale non è molto alto, però sempre il discorso è sempre il fatto che l'antenna è messa da un lato, però la radio è buonissima, dunque tirare radio 5 significa che va benissimo, non bene, benissimo va bene così, dai, bene. Invece io a te ti dicevo qua, ma no, quasi 9 più 20, va bene che noi siamo vicini in linea d'aria, io non so se tu hai lo smitter di quelli a lancetta o di quelli a luci, a led, se mi vuoi dire quanto ti arrivo io lì, così vediamo un po' di fare il rapporto tra me e te, faccio un calcolo più o meno mentale tra il segnale che mi arrivi tu e il segnale che ti arrivo io, a avanti Manolo. No, sono due strumenti diversi, sono due strumenti diversi, no? Evidentemente hai uno Smith molto a mano. Va bene così comunque. Che baracchino hai? Dimmi che baracchino hai, per cortesia, se puoi. Ok, ho capito. Va bene. La radio comunque la senti chiara, no? La mia radio la senti chiara, sì? Addirittura. Va bene, ok. Ottimo per la truppa. Avanti Marco. Guarda, i baracchini alle volte sono terribili. Per esempio, quando ho preso questo, ricevevo tutti i bassi, ho detto, ma sarà l'antenna. Avevo ancora il veicolare, non avevo l'antenna sul tetto. Ho detto, sarà l'antenna, non capisco cosa sia. Se non che ho scoperto che questo smitter era tirchio, segnava meno 2 Santiago, anche di più. Praticamente chi mi arriva a 9 lo ricevo 7, ecco. L'ho dovuto tarare io con un altro apparato, un segnale che arrivava a 9 e quello l'ho portato a 9 uguale. Okay. No, invece quello che ho io, che sto usando in questo momento perlomeno, è il Galaxy 2, no? E ti spiego, se i segnali sono più bassi di 5, 6, massimo 7, segnale magari di un'altra stazione può essere 8-9. Se invece incomincia il segnale a superare gli 8 di Santiago, allora qui diciamo che è giusto agli altri 9-5, 9-10, 9-20, capito? Cioè da Santiago 8 in su diciamo che è più morbido, e morbido va bene rispetto agli altri baracchini che ho, facendo la comparazione con gli altri, no? Mentre invece se i segnali sono bassi, allora questo mi segna di meno, perlomeno questo qui è il Galaxy, ma questo succede anche nel Galaxy Turbo comunque, cioè nel Galaxy Saturno Echo, non Galaxy Turbo, Saturno Echo, capito Marco? Tappa. Purtroppo gli smitter precisi sono quelli degli apparati amatoriali, purché a lancetta, quelli a lancetta tipo il 430, il 440, quelli sono smitter già più belli. Cosa ti volevo dire? Addirittura io avevo un Albrecht 5008, no, un baracchino piccolo, tutto con 400 canali, eccetera. Praticamente riceveva, chi era 9 lo riceveva a Santiago 5, però conta che lo smitter non era a lancetta, era a LED, o meglio dire a cristalli liquidi, e segnava bassissimo, l'ho dovuto tarare io col potenziometro, col trimmer voglio dire. Sì, perché lo smitter ha un suo trimmer, diciamo che lo comanda, se tu dall'interno lo regoli, puoi far arrivare segnali anche a fondo scala, puoi far arrivare, certo, sì, ma è così, in effetti è così, ogni stadio ha il suo trimmer corrispondente per le varie regolazioni, per le varie tensioni, alle varie resistenze o transistor, eccetera, eccetera. È così, in effetti è così, ci sono sempre delle regolatori, sono delle resistenze che regolano. Va bene così, facciamo bene, avanti a Manolo, avanti Manolo. Ok, Manolo, non ci sono problemi, niente di trascendentale, figurati, è una cosa abbastanza elementare che vedrai quando tu incominci a starci qualche giorno a frequenza, così accendono un po' di volte il baracchino, quando si parla di queste cose, tu sai, sono attento e basta, imparerai anche molto, ma molto alla svelta, no, non ci sono problemi, figurati, tutto lì. Poi se tu dovessi avere qualche problema, ci vuole poco, mi chiedi in frequenza e ci saranno altre delucidazioni, non rinneghiamo niente, non neghiamo niente a nessuno, figurati, ma no, ci mancherebbe altro. Avanti, riprendi, fai girare tu dopo, vai. capace o se hai necessità di un aiuto, tu fai un fischio frequenza e c'è sempre qualcuno volontario che ti darebbe una mano, non ce ne sono dei problemi. Ma tu, detto questo, facciamo girare per Marco, avanti Marco. Capo Manolo, e adesso è tutto l'inizio, poi già anche tu già diventerai abbastanza afferrato in materia, dai, questione di abitudini e di tempo. Ti volevo dire, Giulio, che praticamente chi produce baracchini, salvo rari casi, non li ritara giusti gli smitter agli apparati. Praticamente per essere tarato bene, Santiago 9 dovrebbe essere 50 microvolt, cioè loro dovrebbero dare in ingresso un segnale di 50 microvolt e devono regolare lo smitter a 9. Se è così, poi è perfetto. Sì, infatti ci sono quei baracchini che hanno una sensibilità maggiore oppure inferiore ad altri magari, e quello è importante. No, però c'è da dire questo che io ripeto, sino a, diciamo, a metà scala, come ti stavo dicendo, il segnale è un pochino vano, poi invece si stabilizza ed è normale come tutti gli altri. Però qui, anche se non mi segna niente il segnale, questo è vero, perché la lancetta non si muove nemmeno, guarda che sono in grado di recepire una radio 5, dipende naturalmente dalle stazioni che trasmettono, capito? Perciò anche se una stazione si trova molto lontano e di segnale non ce n'è, però alle volte io le darei anche radio 5, perché per la potenza e anche per la chiarezza, soprattutto per la chiarezza della ricezione radio, capito Marco? Sì. L'importante è che non sia magari un baracchino omologato che ha quella radio bassina e cupe, allora 5 mi si è impappinata la lingua, non glielo si può dare, ecco, 5, però quando c'è magari un amplificato allora sì, riesce insomma a vincere il basso segnale. Certo, parlando di un microfono mi sarebbe successo, se poi è il microfono normale con un segnale così basso, o meglio con un segnale zero, giustamente sarà difficile non poterne dare una radio 5, ci mancherebbe. Con un microfono amplificato sì, invece, almeno per quanto riguarda la compressibilità e la chiarezza, non dico la potenza, ma almeno per la compressibilità gli si può dare benissimo 5. Io non è che do 5 solamente quando sento che mi spacca le orecchie il volume, no, assolutamente, per me il radio 5 anche quando la potenza è media potenza, però è di una chiarezza straordinaria, per me quello è sempre radio 5. Ok, avanti Manu. Giulio, io quasi spengo l'apparecchio, perché in questa stanza qua nel salone c'è caldo perché arriva il sole del pomeriggio, e mi trasferisco nell'altra stanza dove c'è il ventilatore e c'è aria fresca. Poi stanotte, se Dio vuole, stasera verso le 7:30 faccio un giro a Bratabona, tanto per non stare a casa. E anch'io probabilmente dopo cena un giretto me lo farò insieme con la famiglia a prendere il fresco. Durante il giorno non faccio troppo caldo, a mare io non ci vado, ma nemmeno per sogno. Caspita, perché arriverai stanco la sala sera, boh. E invece la sera dopo cena anche si fa due passi al fresco, un gelato, non mi invita, e poi si rientra tranquillo e pacifico, proprio con grande serenità e senza essere stanchi tra l'altro. Vabbè, come vuoi tu Marco, non ci sono problemi, figurati, io non ti trattengo, se devi chiudere non stare lì a guardare che mi lasci solo o meno, no, assolutamente, fai come credi che per me va bene ugualmente, Marco, riprendi e poi casomai farò chiamata di nuovo per Manolo, vediamo se c'è, se no anch'io lo smetterò, chiudo e magari me ne vado al computer, capito? Avanti Marco. Sentivo roba sul fondo. Sì, in effetti a uscire col caldo no. Per esempio a me sarebbe piaciuto andare al mare oggi, però di domenica c'è troppa gente, quindi non trovi parcheggio, c'è un bel caldo, eccetera eccetera, preferisco i giorni feriali, almeno chi lavora non va, ecco, se ne sta a lavoro e c'è più posto anche per la macchina, diciamo. Ok Giulio, ti saluto, ci sentiamo o stasera, domani, insomma, quando capita. Buon proseguimento di serata e alle prossime. Ok, ciao Marco, salutoni, a risentirci, alle prossime. Sì, vabbè, tanto se ti sento, già conosco la portante, non ci sono problemi. Tu notalo che quando metti la portante io ti chiamo, so che sei tu oppure altri, no, non ci sono problemi. Perché qua ho un qualcosa che mi segnala proprio con grande precisione, che non dico che cos'è, comunque non si sbaglia, non si sbaglia assolutamente. Quando c'è una portante io la conosco. Va bene Marco, grazie comunque per il piccolo consiglio che abbiamo fatto, ci sentiamo eventualmente alle prossime, dai. Ciao ciao Marco, alle prossime. Ok, ciao. Scoprire chi è che rompe le palle tutti i giorni con questa portante. sto entrando quasi zero, anzi zero, però almeno sappiamo chi è e finalmente la smette. Ogni giorno è sempre un chitarra a tessitura. Va bene, dai, se ci siete ci sentiamo dopo. Come sta andando questo DAC, bene? Sì, e a voi anche troppo forte in radio, figurati, va benissimo, non ci sono problemi. Ehi, qua, io da voi, quando io anche se la conosco, non è che posso dire, sei tu che stai mettendo la portante, già lo sai, che la gente non è che è sincera, poi ti dice che non è vero, non sono io e basta, e cosa fai? Devi metterti lì a bestecciare, però lasciamo perdere, non se ne parla più, capito? Però, ad esempio, la tua portante è come prendere una mazzetta, no? Presente ce l'hai una mazzetta quando tu la batti sull'incudine, così, il suono è quello, proprio un rumore tutto particolare che nessuno ce l'ha, capito qua? Perché quel microfono è una bomba nel vero senso della parola, tant'è vero, ho dovuto anche abbassare il volume perché la radio era talmente alta e sentivo talmente chiaro poi dal VHF Antonio, in quel momento mentre parlavo tu sentivo anche Antonio, pensa un po' che era il microfono sensibile e bello quello che è. Thank you. testa, perché dicevi che avevi il casco nero. Poi la direzione dove, qual era? Aspetta che sono fuori frequenza. La direzione qual era? La direzione era questa, e se non ti avessi trovato, erano cacchi tuoi. Beh, lo devi dire quando vuoi scendere al mare, non c'è problema, anzi, mi avrebbe fatto piacere. Ti dico la verità, non sono sceso proprio perché sapevo di essere solo e di conseguenza, siccome mi annoio, perché quella lì si mette a tirchietta e finché non diventa il colore della sabbia non si muove, io mi annoio e l'ultima volta stavo campando per ben due volte, anzi quelli del chioschetto, laddove l'ultima volta ho speso 70 euro, te lo ripeto, 70 euro. Carissimo, ma dice, ma allora quando sei da solo, passa per la Claudio, così tu paghi io meno, bene o giù. Va bene, sì, figurati, altro che... Oi, oi, oi. Stamattina ho telefonato a Franco Nelton, e forse l'ho convinto che a diventare frequenza, ma speriamo. E c'è, dice, adesso in questo periodo, dice, già ho qualcosina da fare, però ci sto pensando, mi ha detto, va bene, se tu rientri già sono contento, e penso che siano contenti anche gli altri, capito? Ma... Io non ho visto... Boh, so che ha avuto mille problemi, mille cose, ma non voglio entrare in particolare. L'ho visto di sfuggita alla denuncia e poi non ho più neanche uno di tre. L'americano. Niente, poi mi è sfuggito praticamente perché non ha più il numero di telefono che io appunto mi ero rubato e quindi non ci ho più sentito. Che cosa? Ma guarda che sta trasmettendo in full duplex qua a Claudio Spaghetti. Non è buccia di gioia. Quindi se ti sento è perché qua l'impianto è fatto a regolare, come diceva Giulio, quindi quando uno parla in un'altra frequenza non ci sono fischi e fiaschi. Sì, io sentivo benissimo anche a lui, oh. Ma ce ne sono problemi, sì, no, va benissimo, è una modulazione chiara. Sì, no, ti stavo dicendo, no, Franco, l'ho telefonato io, no, siccome c'è, sapevo che aveva lui un 50-24 toccai, no, ed era nuovo, un giorno io l'avevo visto in laboratorio, e ho voluto chiedere se ce l'aveva ancora, perché so che interessa un amico in frequenza che ne abbiamo parlato ieri, perché lui l'ha visto tramite computer e stava pensando di comprarselo. Avevo pensato, quasi, ragazzi, se anche Franco ce l'ha ed è disposto a venderlo, le faccio il nome di Franco e così. E invece mi ha detto che non ce l'ha più e dunque ciccia. E allora ho detto, ma è in frequenza, non rientri. E fate, dai, in questo momento non rientro, perché in questo momento ci sono le mie sorella e basta, e è finita lì. Poi mi ha detto altre cose che si sta facendo a casa, si sta facendo eccetera eccetera, meglio così, sono contento. Sta facendo l'elettricista, sta facendo come lavoro, tutto lì, ma queste sono cose che si possono anche dire, non è un segreto di Stato, ci mancherebbe altro, anzi, se c'è qualcuno che è interessato, che ha bisogno dell'elettricista, sa che deve rivolgersi, basta chiamare a Franco e lui è in grado di accontentarlo, tutto lì o qua. Sì, già, non lo sapevo, pensavo stesse facendo ancora il lavoro che so faceva prima, beh. Però l'elettricista è un lavoro che se è fatto bene vende bene senza nessun problema. Bisogna farlo onestamente, pulito e con tutte le cose a norma, perché è un lavoro molto delicato. Va bene. Comunque. Bisogna che ci vediamo giù, via, ci vediamo un attimino, io come sai è un periodo un po' particolare, molto particolare, perciò. Però ci vediamo e ti ho messo la parte con la cambio 23, guarda che io non mi sono dimenticato, ti ho detto che te lo lavo e te lo... tanto all'attacco dello stesso numero. Stai zitto, la marca che te ne varia. Adesso sto parlando io, smetti a parlare a 5.25, poi vedi, quello che è un canotto. Giusto per far sentire la sua voce, hai capito? E da quando è venuto la diamantola è così. Stai zitto, cane morto, sto parlando con Giulio. Intanto l'attacco del Saletta, ovvero l'attacco del Saletta, se non l'hai cambiato. sentito, se ci siete, ci sentiamo un po', passo il microfono ad Antonio Mombo e poi vi ascolto, al limite ci sentiamo un po', ok? Veglia, capa, cla, buonasera, come sei così basso, cla? Sono qua direttiva, non ce l'ho la mandola, è su, sempre sul tetto, però non è agganciata al cavo, il cavo l'ho usato per l'antenna, per la direttiva dei 10 metri, tra l'altro è puntata a nord, quindi non va bene, capito? Non ha stazionare qua in un bombolo, è una direttiva, ecco ciò, però la punti viaggia, non la posso spostare adesso, è a nord. Ok, ci speriamo semmai dopo, un saluto circolare a tutti da Claudio Sparvia Ventattari. Claude, se vuoi riprendere tu, se no riprende Matteo Giulio. Prendo io per salutare Bombolo e per salutare comunque Giulio, io rimango in radio ascolto, meglio faccio poi sapere che un attimino in alta frequenza, giusto per fare una cosa, dopodiché riprendo qua. Riprendi Bombolo, dai. Capa, comunque non è che sì, male, sei Santiago 7 qua, e ti sento magnificamente bene. Voi sotto mi arrivava sempre una bomba qua, è per quello che me ne sono accorto, hai capito? Ma già va bene, dai. Va bene, importante, ci sentiamo, tu ti ricordo che c'hai l'antenna anche piccola. Mira a te come il segnale alla polarizzazione orizzontale, Giulio. 9,5 qua da me, la radio super bomba, ma veramente super bomba, te l'ho detto anche poc'anzi, anche troppo alta per me, pensa un po'. Brava, è 9,5 già, vabbè, mamma mia, adesso sfida il telefono, vai, ma io mi aspetto uno subito. Ok, però ha dei picchi che arriva a 9,15, ha dei picchi che arriva a 9,15 qua. Va bene, ciao Antonio Grode, buona questa greca in alte frequenze. Ciao Antonio Bombolo, avanti Antonio Bombolo. Ehi, a capo Giulio. Allora, lo sento abbastanza bene Claudio, Santiago 7, a picchi di 8, Radio 5, a voglia. Sì, mi ha urlato, anche troppo. Sì, perché non sta usando l'antenna verticale, sta usando la direttiva che lui la gira, secondo la parte dove la gira il segnale è diverso, è chiaro anche tu. No, dalla mia parte è ultimo, non ci sono problemi. 9,5, vabbè, non è nessun segnale perché in verticale mi arriva 9,20, una cosa del genere. E dunque non è quella, anzi quando si arrabbiava con il watt mi arrivava anche di più di 9,20, sicché non è quello il problema. Però con l'antenna che sta usando adesso, che deve essere qualche decametrica, io non lo so, ma se ha detto che è un'antenna direttiva, che lui la gira e a secondo di dove viene puntata naturalmente il segnale arriva, capito? È così, capito? Guarda adesso che l'ho girata e ho cambiato radio, ho puntato sull'altra radio. Adesso praticamente siamo a nord-est, leggermente intorno ai 300 gradi, quindi verso la Peroce, com'è il segnale? Ma sì, sei tu. Devi bere che allora, orizzontale o verticale, sì, questi sono tre elementi, è una IAG tre elementi per i 28 mega, per i 10 metri, Giulio, capito? Ok, adesso siamo già a 9,25 e siamo, ne arrivi quasi con lo stesso segnale di Graziano che è lì a un rischio quello a me, che è alla Teroce, sì che ti puoi immaginare, mentre Gio Maria mi arriva ancora un pochino più forte, ecco Gio Maria mi arriva con lo stesso segnale che mi stava arrivando poco fa Antonio Grode, uguale identico, quindi lei in quel caso lì avrei dei dubbi, il segnale di Gio Maria con quello di Antonio Grode che mi ha mandato poco fa, se poi lo cambia è diverso il discorso, capito? Quando giri l'antenna e me la punti addosso, io non credo, mi scegli i billeggi, io non credo, ci mancherebbe. Ehi, va bene, adesso vediamo se la trapperà qualche grado in più. Ecco qua, così praticamente siamo quasi sopra. girando l'antenna, si sente, proprio si capisce che l'antenna sta girando, lo sai qua. Diciamo che adesso è esattamente il segnale di Graziano, esatto. Tu li tieni presente che Graziano, così mi faccio la finestra quasi, gli tocco la mano, in linea d'aria, siamo vicini, dunque il segnale è quello, identico, perfetto. Ripeto, a seconda di dove orienti l'antenna è chiaro che il segnale è alla grande, non ci sono problemi. Bene, capito qua? Sentivo il suono del motorino come girava. Grazie. vuole pure se non le vende, capito? Ah, quello non lo so, quanto io l'ultimo che ho comprato, quello comprata saranno una decina di giorni, all'incirca 10 giorni fa, mi ha fatto pagare 23 euro, non so, negli altri borsi non mi interessa nemmeno sapere se costa un euro in più o un euro in meno, non è quello il problema. Siccome avendo la bottega io vicino sempre, sono andato per quel motivo, perché me la carico nel portabagagli e via, e non devo perdere tempo, capito? Anche se non ho il vuoto, me la danno stesso, e poi il vuoto glielo riporto, insomma, e poi ci conosciamo da una vita, ci conosciamo, siamo amici da 40 anni, lavoro da 45, tutto il tempo che io sono lì, loro qui mi danno l'angolo della Fredda, poi sono trasferiti in via Gabriele Annunzio, io ho sempre comprato da loro, capito? Beh, certamente, uno quando c'ha la cosa, l'abbiamo dando 21 noi, del Poggio, 29 quella da 15, quella porta attaccata 33-27. Ho capito, sì, beh certo, sì, io lo so, sono voi, e poi non lo sanno neanche bene, anche perché quando non l'hanno fatto, hanno avuto bisogno, sono venuti da me e io vado a loro, sai come, no? Come dice il proverbio, se voi si tenga l'armonia, un piacere anda è la sua vittoria, no? E dunque, allora si fa così, no? Non è che sei lì a guardare i due euro, che se ne frega, no? Non me ne frega niente, capito? Perciò io tengo più all'amicizia tante volte che al euro, perché l'euro non è così importante quanto l'amicizia, quando si tratta di uno o due euro che se ne frega, non diventi né più ricco né più povero, ma sempre bene. Giustamente uno la mette e poi ti viene bene, non è che... Anche io la penso così, se ciò che per esempio se io conosco uno che per esempio quello là me la dà 2 euro in meno, 3 euro in meno, ecco, io vado a quello là perché lo conosco, c'è una certa amicizia, se no, cioè, non, anche io la penso così, se nessuno mi aiuta, nessuno mi dà per niente, allora vado, mi conviene. Giusta, ma si fa così, è una cosa giusta. Beh, in effetti è così, sì, certo. Ehi, sai, e poi quando uno è abituato ad andare sempre in un posto a comprare, va lì, anche se... sono fatto che uno si trova bene, è già pagante quello, no? Senza stare lì a guardare, ma me la deve venire pagare più caro, me la deve venire pagare manco. No, ci passo sopra quelle cose. Certo, se poi si tratta di una grande differenza, allora il discorso cambia, ma quando si tratta di un euro o due euro, chi se ne frega, no, non è quello il problema. Ripeto, l'amicizia vale più di un euro, più di due euro, e dunque va bene così. Se vuoi che l'amore ti mantenga, è un piacere grande alla sorveglia. Così diceva una volta gli anziani. Oi, oi, oi, lei così, a tu. Vediamo se c'è il Graziano che vuole entrare, che se c'è stasera. Al Graziano ci sei? Graziano, tu sempre un mito, sì. Stasera non è a voglia, mi cosa è andata in campagna? Attento, Gio Maria. Non c'è nemmeno Gio Maria, se non sarebbero entrati, sarebbero... vabbè, la sera già ci sentiamo, non dico tutta la sera, tante volte io esco e allora magari quando rientro non c'è nessuno, però Gio Maria e Graziano già si sentono tutti i giorni. E diciamo che se non giorno l'altro io già li sento ugualmente, non ci sono problemi, facciamo due chiacchiere. Quando la giovana dice, quando la giovana, quando ci sto toccando, ora ci faccio in giro, praticamente esco la sera al fresco, così almeno prendiamo una boccata di ossigeno tranquillo, bello, fresco, e poi rientriamo a casa in santa pace. Ehi, la vita di pensionato, non mi sono ancora abituato, guarda, sono... Non so cosa fare tante volte, Sassari, non è che ti offre molto, allora tante volte me ne vado anche in bottega e cerco di inventare qualche cosa così, oppure faccio qualche cosetta qui a casa, boh. Non so come ti passare lì, brutto, cioè è bello perché hai tanto tempo, hai tutto il tempo disponibile che vuoi, però uno che è abituato a lavorare, guarda, non ci avrei mai finito. Sto male, ecco, mi trovo male. Preferivo lavorare dalla mattina alla sera, fare le mie 7-8 ore di lavoro e mi trascorrevo il tempo, mi devo, diciamo, ecco, più serenamente. Invece va, da Padova, da un posto là, la mattina va bene, una sola passeggiata, la sera altrettanto, quando capita, però rimani così annoiato tante volte. Capitano, è brutto. Lo so, Giulio. Secondo me, boh, è fatto troppo presto, secondo me. Cioè, non è, ti ho detto l'altro giorno, non è che ti dovevi fare grandissimi lavori, è anche una fesseria. Io li avrei presi, aiutavo un fortello, roba leggera, dai. Perché poi succede quello, mica io lo capisco che ti stai trovando molto male. Perché uno quando è abituato a lavorare, molte volte uno ha bisogno anche che faccia delle valutazioni. Ecco. Sì, no, ma te così Antonio. Sì, uno o lavora proprio a pieno come una volta, perché se no poi non toglieresti le spese, ma sì. Se tu apri di pagare le tasse, capito? E il problema è quello, tu. Io mi faccio qualche lavoretto per casa così, magari a porte chiuse, e per me basta, non devo rendere conto di niente a nessuno. Ma se si apro e faccio lavori ai clienti, dovrei riaprirmi la partita IVA, insomma, rimettermi di nuovo in mezzo alle spese delle tasse. E dopo tutto ne ho fatto 60 anni di lavoro, non è che ho fatto un giorno. Cioè, ma io, sinceramente parlando, mi sono più che altro fermato perché mi hanno convinto qua a casa, o meglio, non è che mi hanno convinto comunque, diciamo che tra male e cuore io ho smesso e basta, però ogni tanto già me la faccio, diciamo, la scappatina e qualcosina me la faccio, mi sono fatto muovere l'uomo per casa e così via, ogni tanto vado a mettere a capo, vado, compro il materiale e faccio magari un rinnovo qua, capito, tanto, e trascorro il tempo così. Avanti, ecco Marco. Marco, chi è Marco? Chi era Marco? No, Antonio. Appa, guarda un attimino, dammi un controllo giù, che sto utilizzando un HF, un altro HF, volevo sapere come stavo uscendo. 25. Guarda, così si è salito un pochettino, hola. No, non ho notato le sue differenze, sempre il 9 più 25. E adesso, guarda un po', 2-3, 1-2-3, prova. Forse leggermente, ma quasi niente. Poc'anzi invece no, con l'850 poc'anzi stavo usando, la timbre che era quella. Prima era il 930 pieno, Non... Questo qua è un IC728, dovrebbe comunque dare una bella potenza anche questo, invece mi sembra che non è un granché, dai. È al pari del 140 questo. Ho capito, no, l'altra era più forte, comunque questo è, va benissimo, 9 più 25, tranquillo, non ci sono problemi. L'altra era 9.30, era, anche la radio era molto superiore, più chiara, più pulita, più bella, capito Antonio? Aspetta, mi sono dimenticato forse il preamplificatore, quello qua adesso, ora, 1, 2, 3, prova. Sì, ha migliorato la radio, è diventata più forte, è anche un pochino più chiara, però era migliore sempre l'altra, quella di poc'anzi, quando c'era Claudio, quella radio che aveva era migliore. Ah, poi vabbè, stiamo parlando di un 850 contro un 728, che ripeto, questo è al pari di un 140 come tipologia di radio, capito? Non è un granché, non da molte cose. Ok. Va bene. Come lo senti tu, Antonio Bono? Come lo senti Antonio Grode? Buono? Ehi Giulio, stavo ascoltando così la radio, un po' bassa. Un po' bassa di radio, mi stai sentendo tu? Appa, un po' bassa di radio, non mi piace tanto, vorrei poco fare l'altro. È una cosa completamente diversa, sia come acustica e come tipologia di radio, normale che ci sia questa differenza, anzi mi avrebbe dato fastidio se non fosse stato così, capito? Perché a seconda di quello che spendi, a seconda della cosa della spesa, sicuramente c'hai stato completamente diverso. Quindi è bene che sia così. A seconda dell'apparato, la pintazio. Chiaro, magari l'FM spinge forte, meglio lo sa. No, questo qua dovrebbe, guarda, ti dico la verità, questo non è così, essendo una logica ti devi lasciare un attimino di tempo perché è scalpo. Aspettate un attimino che avevo fatto una chiamata prima e devo rispondere un attimo. Ok, infatti l'ho sentito. Ho sentito la chiamata tua arrivata. Vabbè, sì, sì, in effetti Antonio Bombolo, poc'anzi aveva una radio bellissima, di lusso. Il segnale già è sempre buono, 9,25, però la radio con la migliore, è anche il segnale la migliore con l'altro. Sì, sì, beh, ma l'ha spiegato una radio diversa, va a 8,50, e questa è tutta un'altra musica. Molto più forte e molto più chiara l'altra, più bella insomma, ecco al 100%. Va bene, tu riprendi, vai. Giappa, è una lara al top, andava bene, brutto. Vabbè. Non tutto si può, ma magari nelle bande che modula lui va bene, capito? È probabile che magari in AM, magari, su questa frequenza, se magari c'è la prova in banda laterale, sicuramente sarà una super radio anche quella, e non ci saranno dubbi. Sì, sì. Piuttosto, la tua radio, lo stesso Antonio, è bellissima, è chiara, bella, potente, proprio. Galassi, lo voglio fare, Galassi, come modulazione 27 è straordinaria. Poi tu hai anche la timbrica giusta, hai per quella radio, Antonio, va benissimo, non bene, benissimo. Ah, in genere a me mi sono sempre andato bene tutta la radio, vediamoci quando la radio è buona. Sì, no, non ci sono dubbi. No, io devo dire una cosa, tra padre e figlio, cioè tra tuo padre e te, forse perché sei più giovane, non lo so, questo non me lo so spiegare, però come timbre caccerai migliore tu di quella di Pierpaolo, va benissimo anche quella di Pierpaolo, è ottima anche quella, però la tua io la sento più chiara, più forse perché sei più giovane, sarà per quello, capito? Io la trovo più bella, più diciamo così, più cosa vuoi che ti dica, è una radio perfetta, non c'è niente, sai cosa vuol dire niente, non c'è nessuna interazione, è perfetta al 100%. Ma se tu hai sentito, come fai a saperlo se va meglio con questa radio, va peggio di me? L'avevo già sentito tempo fa, io Pierpaolo, proprio il primo periodo che l'avete comprato, capito? No, ma guarda che non l'hai sentito tu con questa radio, stai sbagliando. Bello Galaxy, sì, e allora l'ho sentito appena l'avete comprato, te l'avevo non mi ricordo, comunque ti posso assicurare che per un attimo mi hanno sentito a Pierpaolo con quella radio, e devo dire che la tua voce è più chiara. No, vabbè, è una timbrica diversa. Ah, comunque a me dalla più piccola alla più grande mi sono andate tutte bene le radio, non ho mai fallito. Grazie a Dio. Sì, quando sì, d'accordo, ma questa in maniera particolare, questa è proprio la migliore in assoluto, questa forse perché sarà più potente, tanto è vero mi arriva anche più forte di Santiago, eccetera, eccetera, no, sarà anche per quello, non lo so, però questa va bene, ad esempio con quel microfono che hai sempre usato, l'IM1000 o cosa era, adesso non so se stai usando quello, però era ottimo lo stesso, però questo con questa radio, la caratteristica della radio è alto, è senz'altro quello, capito? È più bella, più pulita, ecco. Certo, questo è già la con il DM1000. Ecco appunto, visto il DM1000 abbinato a Galaxy, è ottima radio, veramente, perlomeno per la tua timbrica. Magari la trattura o fa schifo, non lo so, questo non te lo so dire, benissimo, la tua timbrica è ottima sia per quel microfono che per quella radio abbinate assieme, capito? Chiappa, già andava, no, adesso sono abbastanza contento di questa radio, ma voi un marrasoni, ma già andava. tante altre volte, ma per me tu hai raggiunto il massimo parlando con quello rispetto a tutti gli altri baracchini che hai avuto prima. Per me questo è il massimo, cioè come timbre, come chiarezza delle radio, eccetera, eccetera, capito? Intendo quello, non è che non riuscivo bene con le altre radio, ma con questa per me è quella che mi piace di più, la verità. Ci hanno scommesso che ci si bene con questa radio. Certo, quello che non ho mai trovato il toto, il keyboard. Ok, sì. Ah, e poi ti dico di più, non è solamente il fatto della trasmissione che è buona quella. Io sono convinto che anche la ricezione, tutti gli altri li senti sicuramente meglio. Io ne sono più che convinto e me lo confermerai tu. Percezione, più o meno si assomigliano tutte, più o meno vai. Questo qua c'è un parlante più grande, più forte, di cose basta, però più o meno, perché le mie radio sono perfette, sono più o meno sento bene, capito? Ok, sì, beh certo, quello sì, lo so. Allora, aspetta un attimino, che cambio l'antenna e ti faccio sentire quello famoso che tu l'altro giorno mi hai detto, ti ricordi? Aspetta solo un attimino, che cambio l'antenna e te lo faccio sentire, e poi mi dici come esce, va bene? Via. Antonio, aspetta, ce lo picchia, perché c'è l'altro accesso, ecco qua, Antonio. Via, avanti. Conto 1, 2, 3, prova, dimmi che differenza c'è fra questo baracchino e l'altro. Questo è il microfono LMB5, con quello che tu conosci. Non è male, l'altro è più forte. Beh, l'altro è più forte, sì, certo. Beh, è più forte anche come watt l'altro, eh. Questo mi sembra 4 watt, 5 watt, mentre l'altro me ne dà 7, 8 a seconda del canale, no? Ma quello è dovuto all'antenna, perché a seconda su quale canale mi trovo l'antenna mi dà di più, cioè mi vende di più o meno, perché se lo sai l'antenna mia è centrata, se che non è quello il problema. L'altro ha più watt e dunque va bene. Tant'è vero, se questo microfono lo piazzo sul Tokai, addirittura come radio è anche più forte come radio, ma non come segnale, rispetto al Galaxy che stavo usando poco fa. Comunque, questa va bene ugualmente, Antu. Capa che va bene, lo smitter funzionando bene. Sì che sta funzionando bene, perché l'avevo regolato, era tutto molto manico, qualcuno l'aveva manomesso, già lo so chi l'aveva manomesso, comunque non è un problema, lasciamo perdere. Poi l'ho regolato io e l'ho fatto allo stesso segnale del Galaxy, l'ho fatto Antu, capito? Carità, ma sai cos'è che mi gira il coglione? So una cosa che io... Aspetta, mamma... Funzionava tutto su San Radio, c'era anche 10 watt, c'aveva. Che fa voi, però? Vinto. Ok, beh certo, te lo so, la persona che ce l'aveva prima l'ha data uno e va a posto le mani, va a posto e vabbè, comunque non è un problema, io te lo sai. Come succede? No, vabbè, è inutile che te lo spieghi, già ti arrivi da solo a capire quello che voglio dire, sì che no, non è un problema. Ad ogni modo già va bene, poi non lo uso mai, non lo uso quasi mai, qualche volta così, solo per farlo funzionare, per non lasciarlo andare così proprio, se no non lo uso quasi mai, io uso, di solito uso sempre il gara, se capito, Anto? Purtroppo è così, le manine, Luca ci ha vite, vorrei dire. Allora, non ho mai abbezzato, ma non è come, boh, io non lo so come cazzo, porto la roba a casa, cioè compare giù la roba e mi dura anni, cazzo, la compare già le ghizze, cazzo, poco tempo distrutto, cioè non andrà più. Io sono con 41 anni di frequenza, non ha mai bruciato uno, al di fuori del fuoco. fulmine che me l'ha bruciato il baracchino. Io non ho mai bruciato un baracchino, mai bruciato un alimentatore, mai rovinato un microfono, nulla, nulla di nulla. In 41 anni di frequenza, dal 1972, ti puoi immaginare, 41 anni e mezzo anche, perché eravamo di febbraio allora, e stavo dicendo, proprio i primissimi giorni di febbraio, stavo dicendo, non sai cos'è, la gente quando va la malattia di lo che ci ha visto, a volte, io posso anche capire, uno la fa, però qualcosina la capisce e sa quello che deve fare. Uno quando apre un apparecchio, se non sa dove mettere le mani, non ci deve pensare più per aprirlo, si la vuoi apri e lo rovina, pazienza. Comunque non me ne frega niente, non sono pentito, mi ha detto, per carità, no, va bene così, per me non è un problema, figurati. Ma non si tratta di quello, io sto parlando in generale, si tratta che, sto parlando in generale adesso, prego, una persona che conosco io, e mi ha rubato il televisore uguale al suo, il mio è perfetto. Cazzo, si rompiglia, dopo di una chitarra la televisione non funzionava più. Pare che faccia nel lupo, come sa niente. Si piglia una sacosa, cazzo, fasciato. Tu non sai che nella vita le persone non sono tutti uguali, no? E ci sono quelli che le cose le trattano bene, ci sono quelli che... E guarda, nella mia strada, tanto per fare un esempio, nella mia strada, dove abito io, c'è una macchina uguale, identica alla mia, è dello stesso periodo, eccetera. La mia tiene presente 4 anni, tant'è vero, il mese scorso, il 27 del mese scorso, l'ho dovuta revisionare, perché ormai aveva raggiunto i 4 anni, no? Beh, se tu vedi la mia è nuova, nuova, quando è lavata la puoi mettere in salone vicino alla nuova, è nuova, proprio fiammante. Ce n'è un'altra che ce l'ha dopo di me, proprio nella stessa strada, anche se di diverso colore, ed è una carretta vicia, tutta schiacciata, per portilli, sottoporta, faro, basta, cosa vuoi ti dire? Per dirti no come stanno le cose. Le cose, se tu ci tieni per le tue cose, te le tratti bene, ti durano, se non ci tieni, o se sei un asinello, è chiaro che a un certo momento te la rovini, e meglio per te, cosa vuoi dire? Tu lo sai benissimo, le persone sono così, ci sono quelle che si comportano bene e trattano bene le cose, ci sono quelle che si comportano male e le trattano male, è tutto lì. Cappa, guarda cazzo, io non le sopporto, tu guarda lo strada nostro, quello delle bombole, piazza strana, quello ci assomiglia al fiorino. E guardati quello degli altri, beh, un mare c'è, cioè, un abisso, per come lo trattiamo noi e per come lo trattano gli altri. Là ci sono tutti quanti disintegrati, queste macchine, guardati la nostra a vedere. Beh sì, è così, in effetti è così, ma io mi ricordo, no? Tu lo sai, io frequentavo lì molto, da Molito, frequentavo nell'ufficio da Molito, via Gabriele Annunzio, no? Essendo vicino, poi siamo amici, quando con Giulio, adesso vabbè ha chiuso, già da tempo ha chiuso l'ufficina, ma quando portavano le moto, ad esempio, quelle di Fuis, le moto erano sempre a posto, il cassone non era tutto anticicciato, tutto antomissato, come tante altre moto di bombolai che ho visto, Bacaridai, ma quando mai, dice, hai un po' tutti i tavoli, tutti tanti fasciati, mettere, rifacevi le tavole, così ti hai rovinato il pianale della moto, ti hai rovinato tutta fossi, capita che le bombe non rimanevano nemmeno in piedi, non rimanevano dritte, e questo è da punire i cucati, perché intanto dritte che aspettassero, rovesciavano se non le regavi. Per dire, e poi io vedevo che la moto di fossi era sempre a posto, sempre in ordine, tranquilla, eccetera, eccetera, anzi adesso hanno anche la macchina, hanno una macchina, hanno. Ma ripeto, tanti bombolai venivano lì con delle moto, e se questo è la tua lavoro, tutto lo devi trattare bene, se non tu lo dati perché io per te, qual è il discorso, Antu? Le persone, ripeto, non sono tutti uguali. Dai, dai, che su strada di voi, se tu ti fasciando, Giulio. Vabbè. La moto già la trattavano un po' più bene, ma queste macchine che vanno va, cazzo, una deve essere che c'è il culto da poco, anche perché devi stare attento perché è una poca attrezzata, cioè se non stai attento guidando, non è che è una poca attrezzata, non sono lunghe come macchine. Se non sei attento stanno rompendo le rocche pure. No, Antonio, i motori fuori sono tutti a posto, stai tranquillo, sono tutti avanti di lusso, non ce ne sono dei problemi. Certo, voi l'invecchiamento c'è sempre, però non sono ammaccate, non sono schiacciate, il motore è sempre perfetto, tutto a posto. Invece io vedo certe bombe, anche ieri mattina, quando sono salito a Sassari, stavo togliendo uno in via Lomberto, pieno di bombole, era anche quella vasia, infatti era da lì dove mi trovava a Baita un po', poi con i buffoli di manco bomboli, i lugascioni, forse salirebbe meglio, proprio arrancando, salendo in via Lomberto, questa moto con le bombole, capito? E invece ho visto che la moto di Fosi alza, i momenti alza, capita, anche perché, ripeto, Giulio Murito li metteva a posto come si deve sempre, non ci sono dubbi, cioè loro ci tenevano, poi ce ne hanno anche una di riserva, ne hanno, se gli si guarda una, non è che dici non posso lavorare, no, hanno un'altra di riserva, tranquillo, pacifico, la macchina ce l'hanno, non è messa male, è messa bene, sta tranquillo, no, forse tu ti stai sbagliando, ma la macchina che porta Antonio Fosi è buona, è in ottime condizioni, caspita. Va bene, adesso in ottime condizioni. Certo, guardati la nostra, poi mi torni la risposta. Vabbè, sicuramente ci ha rompato anche l'uomo. Ma che succede? Noi praticamente, se tu guardi la nostra, anche sono legate con la cinghia, che nessuno sta a salire di lì da cinghia. Hanno il gancio che attaccano in quei cori tra e stringe. Le bombole non si muovono, rimangono ferme, non ce l'ha nessuna sassa di questo sistema. No, a meno che non si sono battuti in questi giorni, tanto, però io l'ultima volta che l'ho vista, io ripeto, l'ultima volta che l'ho vista la macchina era in ordine, a posto, e se si è sbattuto sta tranquillo che Antonio la fa riparare subito, non se la tiene qui, se ce l'ha per un po' di giorni vuol dire o sta aspettando l'assicurazione, non lo so, però ti posso garantire che i mezzi di trasporto loro ci tengono per i mezzi di lavoro, no, non vedo problemi, capito? No, non è quello, figurati, proprio Antonio vuoi, è proprio pignolo, mamma mia, se una cosa non gliela fai bene, oia, e già te lo manda a dire, sì. Gabba, io già li conosco tanti anni, poi, conosco da una vita, guarda, che era portata qua. Allora che tu cammina nel Giulio, che si sente in strada, cazzo, ma cammina davvero questa macchina. La pigliata, lo principale mio, è decido amore, perché siccome la sua ci ha avuto un problema, la punto sua. Allora l'ha tirata fino a 190, l'ha tirata. Se poco cammina, ma camminava perché sono motori, sono 1.300 multijet, 16 valvole turbo. Glielo credo, se ha quei motori, glielo credo, se va un motore del genere, glielo credo che cammina. Nemmeno la mia ci arriva, la mia è solo 1.100, di cilindrata, 1.130, e dunque la casa me l'ha data per 156, mi sembra, all'ora, sì, la velocità massima 156 all'ora, ma 156 all'ora con me si risogna, perché io non ho superato mai il 100, e non li supererò mai, cioè tranquillo, io vado piano, non mi interessa, cioè, tanto va bene così, anche perché fretta non ne ho, quando vado in macchina ando piano, tanto è vero, grazie a Dio, in 47 anni mi sembra che ho la patente della macchina, sì, 47 anni da 66, sì che ti puoi immaginare, non ho mai avuto niente, la verità, spero di non avere mai niente. Prima, vabbè, avevo la patente della moto, cioè ce l'ho ancora la patente della moto. Tu pensa che la mia patente è sempre la vecchia patente, quella famosa rosa, non è che sul tesserino che ti dà degli oggi. Tant'è vero, la mia patente vale anche come carta d'identità, come testa di riconoscimento, in poche parole. Invece, a differenza delle patenterie moderne di oggi, quelle come testa di riconoscimento non valgono, valgono solo come patente e basta, capito? Lo so, però adesso le stanno cambiando man mano che va. stanno cambiando adesso. Dunque, guarda, questo multijet diesel, cavolo, sono fantastici questi motori, consumano poco, consumano pochissimo a confronto ad altre macchine e pompano un bel, camminano un bel. Beh sì, sono macchine che hanno una certa potenza, è giusto che camminino, e hanno grido, e beh certo. No, e poi è meglio che abbiano un motore così potente, perché quando la carichi quella lì è meglio che sia così, glielo credo. E poi ricordati, quando la macchina ha il motore potente dura anche di più anni, non ci sono dubbi, perché è come per dire che so io un peso da 50 kg ad esempio, lo prende un bambino, un peso da 50 kg che lo prende un uomo, è la stessa cosa, un uomo è chiaro, ha più forza e lo sopporta di più, è così, è la macchina, no? Avendo un motore più potente sopporta di più tutto, perché non è solamente il motore, è tutta rinforzata, perché ogni macchina è costruita in maniera rispetto alla potenza del motore, è normale, no? È perché quello vale per gli ammortizzatori, vale per le gomme, vale, ma tutto vale, la pressione, tutto quanto, è così, è logico, se il motore è potente anche la macchina ha le sue caratteristiche adatte a quel motore, capito? Ma è il motore dell'appunto, il motore dell'appunto, per appunto della Panda, sono gli stessi, dai. Ecco, sono tutti gli stessi, il nuovo motore a gasolio. Va bene Giulio, io devo lasciare perché devo andare a fare una commissione. Ce la risentiamo. Ok Antù, ciao, ci sentiamo. Alle prossime, fate sentire però ogni tanto, Antù, almeno quando ne hai voglia, se non altro, se ci senti che siamo in frequenza, non statene solamente in ascolto, entra, quelli facciamo quattro chiacchiere. Antù, ciao Antù, salutoni, grazie per il questo. Salutami a Pierpaolo, ciao.